Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme all'appuntamento con il gastronauta. La tendenza è il pane nero, poi andremo insieme a Verona, le uscite al cinema con le novità in sala, l'appuntamento con le tecnologie, questa volta con Enrico Pagliarini parliamo di musica. E a questo proposito iniziamo parlando, insomma, entrando nell'atmosfera di un evento come sempre amato da tanti tantissimi ascoltatori. Per me è sempre questa la sigla di Sanremo, anche se non si usa più da tanti anni. Parliamo ovviamente del Festival di Sanremo, perché abbiamo sentito tutte le canzoni in anteprima. Io tante volte gli ho detto: vieni in studio, dai, ti vogliamo in studio a parlare di musica. L'abbiamo disturbato tante volte per parlare di musica e questa volta ce l'abbiamo in studio. Paolo Giordano, critico musicale del giornale. Ciao Paolo. Eccomi, con una presentazione così io mi sento imbarazzato, però devo dire a chiunque ci ascolti che entrare in questi studi è comunque affascinante. Sono belli, cioè, gli studi Radio 24. 24, insomma, c'è cioè, l'attesa, l'apertura della porta, ah. C'è qualcosa di il regista che ti guarda da fuori lo schermo, insomma, è qualcosa di... Un po' come se si aprisse qua il sipario di Sanremo, manca poco, Paolo, manca poco. Allora, abbiamo sentito le canzoni ieri mattina, sì. E a me da ieri mattina fanno la stessa domanda, voglio sapere se fanno la stessa domanda a te, chi vince? Tu cosa rispondi, Paolo? Allora, io rispondo, ho questa frase che è vera, rispondo che il primo ascolto è pericoloso, perché il vincitore del Festival di Sanremo arriva dopo 5 giorni di ascolti continui da parte di tutti, della giuria, insomma dei telespettatori. Ascoltando una volta tutte le canzoni, una dietro l'altra, con frenesia, non da soli ma con i colleghi, ti porta a valutazioni che non quasi mai sono poi quelle definitive. Io mi ricordo, non so se anche per te è stato così, l'anno scorso quando il volo, abbiamo sentito il brano del volo, tutti ridevano, però dicevamo certo che questi al televoto. Ecco, però quest'anno però mi sembra sì, quest'anno mi sembra però anche sotto questo aspetto più equilibrato, sì. Tanti cantanti potrebbero sfidarsela sia con le giurie sia col televoto, perché tanti hanno un pubblico che televota, diciamo così. Tanti hanno un pubblico che televota e devo dire che il Conti quest'anno secondo me ha fatto anche meglio dell'anno scorso. Il livello medio è più quadrato, non so come spiegarmi, è più alto rispetto allo scorso anno. C'è un po' di tutto. Io quando ho ascoltato gli Stadio, il brano degli Stadio, la lettera insomma ideale tra padre e figlia, cantata e suonata come una band di Vasco Rossi, io certo. Ho trovato molto entusiasmo. Quando ho sentito Ruggeri fare quasi metallaro alla fine del proprio pezzo. Sì, dei leoni, Stadio e Ruggeri proprio leoni. Esatto, esatto. Ma anche mi sono accorto per l'ennesima volta che Arisa ha una voce... ragazzi, Arisa è un numero uno per la voce. Poi, il pezzo di Arisa poi è anche molto bello. Il pezzo è molto bello. Ci sono delle sorprese che secondo me vedrai che convinceranno. Allora, dimmi qual è il, per ora appunto, un ascolto solo, non abbiamo sì. potuto nemmeno sentirle la seconda volta, quindi sì. Il primo ascolto è quello che è quello dell'impatto, non quello delle canzoni che poi poco a poco ti entreranno in testa. Secondo te le più belle al momento per te quali sono? Così gli ascoltatori già sanno cosa si aspetteranno. Beh, la coppia Caccamo Iorato ha un testo di Giuliano Sangiorgi ed è molto... molto possibile che piaccia, anche perché sono tanti anni che non vince una coppia al Festival di Sanremo e loro sono sorprendenti ma ben assortiti, secondo me. Sì. Concordo, poi la coppia funziona sempre, sì. Da Oxa Leali, esatto, Tosca Ron, esatto. Insomma la coppia fa sempre... Altra canzone che a me è piaciuta molto è quella, appunto, quella di Arisa, molto bella, tra l'altro un testo non d'amore ma di spiritualità molto denso. Guarda che Arisa, mi permetto di interromperti, Arisa quando incrocia questo suo paroliere, autore, chiamalo come vuoi, Giuseppe Anastasi, raggiunge il meglio, perché Giuseppe Anastasi scrive per lei da quando era sconosciuta, quindi si conoscono così bene, io credo che questa sia una bella canzone. Io sono sorpresa, entusiasta, mi ha conquistato la canzone di Valerio Scanu. Lo dico, lo proclamo, lo dico a tutti. E fai bene. Oh, fai siamo bene. D'accordo. Allora, Valerio Scanu si gioca in questo festival la possibilità non di restare famoso, perché glielo ha già consentito il programma televisivo a cui ha partecipato, vincendo, eccetera. Ma si gioca la credibilità musicale, artistica. Se tu paragoni i due brani, quello con cui ha partecipato e vinto l'ultimo festival e quello con cui partecipa adesso, non c'è confronto. Questo è proprio un bel pezzo. Questo è un bel pezzo con un bel testo che vagamente anche autobiografico, nel momento in cui lui dice sono andato avanti, poi a un certo punto mi sono accorto di non avere le forze e sono tornato al punto di partenza. E da quel punto di vista lì io credo che sarà sorprendente e che sia in buona forma, secondo me. Si capisce anche dalla cover che ha scelto. Ah, ecco perché, aspetta che ho anche qua l'elenco delle cover. Battisti, lui. Esatto, lui ha scelto uno dei pezzi che sono impossibili da fare, nel senso devi avere veramente fegato per farlo, ma anche Clementino che ha scelto Don Raffaele. Allora diciamolo, ci sarà come al solito questa serata, esatto, in cui non eseguiranno i loro brani ma cover di brani famosi. Sì. Valerio Scanu, Io vivrò senza te, paura vera, e dicevi Clementino, Don Raffaele, quindi vai a cantare in napoletano Fabrizio De Andrea a Sanremo. Insomma, non sei un artista di lungo corso, ma sei Clementino, che è molto bravo, ma che è conosciuto però da un pubblico, ecco, allora diverso. Parliamo dei napoletani. Adesso ti dico cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto, sia di Clementino che di Rocco Hunt. Mi è piaciuto di più il pezzo di Rocco Hunt perché poi si intitola Wake Up e ci sveglia un po' tutti, perché ha un bel, bel funk, un bel... Quello di Clementino è un po' più pop. Entrambi i testi però sono un po' troppo centrati sul sud e secondo me rischiano di non arrivare a tutto il pubblico. Sì, sono parzialmente d'accordo. A me piace nettamente di più il pezzo di Rocco Hunt perché è come una versione, ce lo dicevamo anche ieri in sala stampa, è come una versione 2.0 di Tullio De Piscopo, Tony Esposito, cioè è quella andamento lento, non so come dire, qualcosa di molto coinvolgente che non farà stare fermi le persone che lo ascoltano. Invece quello di Clementino mi sembra già vecchio, mi sembra un brano che ha già una patina di passato, anche solo quando lui canta, lo ripete due o tre volte durante il brano, la parola fra. La parola fra si usa ancora, non esatto, lo so, c'è una cosa che non mi sembra messa in un testo, non intercalare così dal vivo, ma messa in un testo due o tre volte, secondo me dà l'idea di qualcosa di déjà vu, e credo che tra i due non ci sia confronto. Per quanto riguarda invece la napoletanità o il sud orientated, diciamo così, è rischioso, è molto rischioso che... perché poi c'è chi lo capisce e chi invece lo ritiene un po' malizioso. Perché, ecco, capisci? Anche quello, sì. Perché uno dice, ok, va bene, abbiamo capito, vi piangete addosso, cioè che in realtà non è né l'attitudine di uno né quella dell'altro. E infatti. E quindi sì, questo rischio può esserci, sì. Intanto ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666, potete anche scrivere a me su Twitter @MartaCagnola, cancelletto ISDV, cioè Il Sabato del Villaggio, il 349-238-6666, va bene anche per i vostri WhatsApp. Anche perché se avete qualche curiosità su Sanremo abbiamo qui Paolo Giordano e ci può. Allora, altra domanda che mi hanno fatto da ieri e sicuramente l'hanno chiesto anche a te, Elio. Elio, beh. Perché tutti vogliono sapere Elio cosa fa? Beh, Elio, posso dire una cosa? Sbilanciati. Sai che magari stavolta Elio magari vince pure? Perché è un brano talmente folle. Sì, è delirante. Delirante, geniale, cioè mettici tutto. Non può, non lo so, è veramente qualcosa che ci ha lasciato a me senz'altro, ma anche a sì, voi. Sì, anche sì, abbiamo, ci ha lasciato senza parole 7 cambi di tempo, cioè ogni stacco che parte, ogni ritornello che parte dal ritornello precedente, insomma è qualcosa di veramente non solo difficile da pensare, ma anche difficile da suonare dal vivo, perché poi loro lo suoneranno dal vivo e non voglio essere, non vorrei essere nei panni dell'orchestra. Sì, perché è complicatissimo. Peraltro impazzisce. Loro dicono: a Sanremo vince il ritornello e noi ne facciamo 7. Esatto. Quindi ragione. Sono 7 canzoni, 7 ritornelli. Non ci avevo pensato. Sì, e il problema è che noi abbiamo sentito il brano, ma secondo me poi ogni performance loro sarà diversa. Quindi io non ho idea di cosa combineranno le Storie Tese. Ci sono dei brani che mi hanno convinto un filino meno, sì. E io adesso mi sbilancio. Vai. E ti dico, quelli che mi hanno convinto un po' meno per varie ragioni, e adesso voglio sapere anche te cosa, come li hai presi. Quello di Alessio Bernabei mi ha convinto un pochino meno, quello degli Zero Assoluto mi ha convinto un pochino meno, quello dei Dear Jack mi ha convinto un pochino meno e Lorenzo Fragola mi ha convinto un pochino meno. Perché ho messo insieme questi quattro? Perché sono i quattro brani più pop, più nelle intenzioni radiofoniche, però non mi hanno conquistato per ora, ovviamente. Poi sono quelli che sentiremo a ripetizione. Bisogna usare il beneficio di inventario. Non vorrei che poi chi ci ascolta a casa pensasse che ci siamo messi d'accordo, ma la penso anch'io come te. Sono, diciamo, Alessio Bernabei, secondo me, è anche meglio dei Dear Jack, cioè dei suoi. Ah, quest'anno ci sarà anche proprio la storia tra il frontman che se n'è andato, che sfida il gruppo. E Dear Jack hanno comunque un pezzo migliore di quello che avevano l'anno scorso. Nel pezzo di Dear Jack io ho trovato sbagliata la produzione, perché sembra il brano di un cantante solista e non di una band. Ah, ecco. Perché c'è la band e dietro il cantante viene troppo fuori, ma questi sono dettagli. Su Fragola sono d'accordo, 5 autori per quel pezzo, se non sbaglio. Molti i nostri colleghi sono a molti colleghi è piaciuto, sono impazziti, sì. Io no, a onor del io vero. No. Devo dire che anche per me ammetto che questo non è un brano che mi piace, poi vincerà e buonanotte, però detto così ammetto che proprio riconosco che non mi ha lasciato niente, insomma l'ho trovato tra coloro che sono sospesi, cioè anche lui rimane... io per ora, poi magari lo sentiremo mille volte, esatto, però esatto. Primo ascolto, esatto. Le signore Patti Pravo, Dolce Nera, Annalisa, Noemi e Irene Fornaciari. Beh, allora, insomma, hai sentito anche tu che in sala ascolto ieri Noemi è stata applaudita quasi a scena aperta. Sì, anche sì. Il pezzo è bello già a partire dal titolo, La borsa di una donna. È un bel argomento, è un bel modo di affrontare una canzone pop, ci sono delle belle immagini e lei lo canta bene. Sì, non so, oggettivamente. Il testo è molto bello. Non lo so. Invece Patti Pravo. Insomma, mi sarei aspettato un po' di più. Onestamente. A me invece il pezzo è piaciuto. Ho un po' paura dell'interpretazione, perché magari lì sul palco sarà rischioso. Ci sono dei passaggi in cui esatto. È un pezzo un po' rischioso. Sì. Quello di Annalisa molto complesso. Annalisa complessissimo, anche al di là della parolaccia che c'è. Sì, è l'unica parolaccia del festival, che comincia con la P e finisce con la A. È l'unica, ha una doppia in mezzo. Sì. L'unica persona. Che dice una parolaccia è l'ultima dalla quale ti sarei aspettato. È la più elegante, la signora. Però anche, guarda, Roma spogliata di Barbarossa dell'81 aveva già la stessa parolaccia dentro. Quindi... Ecco, anch'io sono d'accordo, ecco. C'era. Mentre in 4 marzo 43 era stata censurata ai tempi di... Beh sì, perché lì era più, come dire... Sì, era 71, erano 10 anni prima, 10 anni che hanno sconvolto la Rai, diciamo così. Ecco, ti devo chiedere un parere invece sui Blu Vertigo, perché anche loro sono molto attesi. Sì, sono molto attesi. Mi metti in una situazione. Allora, abbiamo messo Paolo Giordano in imbarazzo, perché? Io, se devo parlare, devo essere onesto, a me questo brano non è piaciuto. No? No, non è piaciuto, nonostante i Blu Vertigo siano rimasti Blu Vertigo, abbiano il loro DNA ben chiaro, ben stampato su questo brano, evidentemente non hanno cambiato niente eccetera. Io preferisco il testo che è più neorealista, che racconta delle scene di vita che potrebbero essere, che sono quotidiane, ma che possono diventare importanti, che possono essere decisive, che possono avere un significato particolare nella vita di ciascuno, e questa è una bella intuizione. Ma quando in un brano al Festival di Sanremo, in qualsiasi contesto comunque di musica pop, metti così tante cose come hanno fatto i Blue Vertigo in questo disco, anzi, se io posso dire, credo che l'abbia fatto più Morgan che gli altri, ci sono talmente tanti elementi, talmente tanti pezzi, strutture, stacchi, cambi, che non lo so, alla fine come si dice, troppa roba. È tanto, è un pezzo tanto. Esatto. Allora, abbiamo fatto una carrellata senza dare dei consigli, perché sono 24 ore che sia a me che a Paolo ti chiedono: hai sentito le canzoni di Sanremo? Come sono? Tutti vogliono sapere come sono, quindi abbiamo detto un po' cosa ne pensiamo. Nel frattempo è arrivato in studio Enrico Pagliarini, che non so se ascolterà Sanremo, perché Paolo, Enrico non è tanto un appassionato di musica. No, però mi interessava come sono ste canzoni. No, devi sentire il podcast, è di là in redazione. Ah, ok, perfetto. Dopo ti facciamo scaricare il podcast da Radio 24.it. Io dopo faccio un po' di zapping per le radio e ascolto le canzoni che trasmettono le radio, che fanno un po' di selezione. Ma, scusate, posso fare una dopo Sanremo le ascolto, dopo che posso fare una parentesi per chi ci sta ascoltando? Allora, io sono emozionato perché sono in questo studio con tutti questi microfoni. Da una parte c'è Marta Cagnola, dall'altra è entrato lui a parlare di un argomento che mi interessa moltissimo. Io mi sento bene. Allora, facciamo una cosa. Infatti, noi Paolo Giordano lo teniamo. Facciamo di fronte una... c'è un hotel che sabato e domenica ha dei prezzi molto buoni. Ho anche altre cose. Vabbè, facciamo una breve pausa, così ci smaltiamo l'emozione, traffico, e poi saremo ancora insieme per parlare di musica. Il sabato del villaggio. Rockets, rockets, rockets, rockets. Enrico, te la ricordi questa "You spin me round like a record"? Mi fai girare come un disco. Abbiamo anche le luci strobo e il fumo. Sì. Cioè, la glitter ball qua sotto. Sì, abbiamo ancora in studio con noi Paolo Giordano, che è il critico musicale del giornale. Ci ha raggiunto Enrico Pagliarini perché abbiamo parlato delle canzoni di Sanremo. Enrico ha detto che le ascolta in radio dopo Sanremo, così già le hanno scelte le radio. Sì, così so già chi... Cioè, secondo me quelle brutte brutte non le trasmettono. Non è proprio esattamente così. Un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666: ragazzi, l'anno scorso ridevate mentre ascoltavate il volo e hanno vinto, il pubblico è capra. Se dovete fare pronostici dovete dire l'opposto di quello che pensate. Anche qui è il meccanismo di voto di Sanremo, è una media tra la qualità, il pubblico, i fan. È difficile capire chi vince Sanremo sulla carta. Più giurie ci sono e più è difficile prevedere l'esito finale. Se uno affidasse l'esito di Sanremo solo al televoto, più o meno sarebbe individuabile il potenziale vincitore. Quando le giurie sono tre così variabili, è praticamente impossibile capire cosa succederà. Certo. Allora, perché abbiamo già Enrico Pagliarini con noi? Perché ultimamente si dice sempre: ah, certo, adesso è tornato il disco in vinile, tutti comprano i vinili. Io finalmente, dopo tanti anni, posso parlare di vinile senza conflitto di interesse, perché gli ascoltatori lo sanno. Mio padre ha stampato dischi in vinile per più di 50 anni, non lo fa più perché è in pensione, quindi adesso posso parlare senza conflitto di interessi di dischi in vinile. Oh, chissà che collezione hai. Ho una bella collezione. Ce l'hai il giradischi o no? E però non ho il giradischi in questo periodo. No? Quindi ho detto: ma io organizzo una puntata in cui Enrico Pagliarini ci racconta tutto, così poi io vado a fare acquisti, no? Però io ho detto: io tutto non lo so, allora mi faccio aiutare. Fantastico. Allora, andiamo per ordine. Prima chiedo a Paolo. Paolo, tu come ascolti la musica? Beh, insomma, come siamo obbligati a fare ormai, perlomeno quelli della mia generazione, ascoltiamo la musica liquida, no? Quindi attraverso lo streaming, soprattutto streaming più che download. E poi io ho un piacere enorme, lo conservo e penso lo conserverò per sempre, di quando torno a casa da Alessandria posso mettere i vinili sul mio giradischi Technics, tra l'altro, e poi quando uso ancora il CD, perché a me piace, mi piace molto di più. A ti piace ancora anche il CD? Sì, io trovo che per me è sbagliato, non ho sbagliato, io faccio fatica ad ascoltare la musica liquida, cioè quando ti arriva il link ascolti, boh, sì, l'ascolto, però... Cioè l'atto di mettere qualcosa dentro, o sì, dentro ad un cassetto, sì, sopra un giradischi è bello. Sì, sì, sì. È bello perché ti devo dà anche proprio... dire che allora, c'è qualcosa di meglio, però se guardiamo insomma, a livello commerciale oggi, soprattutto se lo confrontiamo con la musica liquida, nulla c'è di meglio del CD come qualità audio. Come, beh, certo. CD, l'audio diciamo dell'MP3 è tutto compresso, si sente malissimo. Però devo dire una cosa, voi state parlando con uno che il giorno dell'esame, qui ritorno, faccio un po' di carambata, però per rendere l'idea, il giorno dell'esame di terza media, quindi stiamo parlando, ahimè, drammaticamente del 79. Facciamo i conti, okay. Non va bene. Io sono uscito da scuola, sono andato a casa, ho mangiato con mia mamma e la prima cosa che ho fatto sono corso nel negozio di dischi di Alessandria, che Audiovox si chiamava, e mi sono comprato il 45 giri dei Sex Pistols e Robot dei Kraftwerk. Ecco. Ecco. Comunque Paolo ha citato Technics, che è stata per tantissimi anni una marca mitica per il mondo dei giradischi, però oggi possiamo dire che Technics torna, che è un segnale per il mercato, sì, perché effettivamente il vinile sta tornando un po' di moda. Adesso non parliamo di numeri. Sì, i numeri sono, milioni, sono molto, no? Piccoli, perché però, parliamo di credo 4% del mercato, quindi veramente una, sì, una nicchia. Però è un 4% che fino a qualche anno fa era diventato il 2%, sì, ma era una cosa proprio insignificante. Oggi Technics torna, chi ha lavorato alla radio, che forse è la minoranza dei nostri ascoltatori, ma invece chi è andato almeno una volta in una discoteca avrà sicuramente visto una volta un piatto su cui i DJ screcciavano, comunque che usavano per fare il missaggio tra un disco e l'altro. Ecco, quei piatti erano, e sono ancora in buona parte, perché ne esistono ancora molti, i famosi Technics SL1200. La notizia di questo mondo, ma è una notizia bomba, comunque una bellissima notizia che emoziona tutti noi, è che Panasonic, che è proprietaria del brand, del marchio Technics, che aveva messo un po' in soffitta, e tra un po' cito anche una cosa che ci siamo detti con dei colleghi, torna sul mercato quest'anno proprio con questo prodotto, con questo SL1200. L'annuncio è stato fatto al CES di Las Vegas, alla conferenza stampa di Panasonic, dove c'era Gianfranco Giardina, e dopo la conferenza stampa ci siamo guardati, ci siamo scambiati delle opinioni proprio su questo. Gianfranco Giardina è il direttore di uno dei più belli e tecnologicamente preparati siti di tecnologia, che io invito spesso a 2024, ed è qui con noi collegato. Gianfranco, ce benvenuto. L'abbiamo, ciao Gianfranco. Eccomi, ciao e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Perché siamo emozionati, eravamo emozionati a Las Vegas quando Panasonic ha fatto questo annuncio? Ma perché, Enrico, se ti ricordi, volevamo comprare il marchio Technics qualche anno fa. Volevate comprarvelo voi due? Io me ne vado allora. Panasonic non lo usava più, rimaneva lì e noi eravamo molto molto. Volevate andare con la valigetta dai signori Panasonic e dire vabbè. No, ma se ci pensi, quante, che ne so, HP che aveva messo in soffitta il marchio Compaq, famosissimo. Ce ne sono un po' di marchi da comprare, ma... poi Panasonic ci ha ripensato, ha rilanciato Technics questo un anno e mezzo fa con dei prodotti però di altissima fascia high-end, con un mercato probabilmente molto anche difficile da identificare per un marchio come Technics, ma colpo di scena è ritornata su un prodotto che di fatto è molto popolare, molto commerciale. Diciamo che nel 2010, quando è stato interrotto, quando è stato cessato la produzione di quel giradischi, costava meno di 500 euro, quindi è comunque un prodotto accessibile, no? Che torna sul mercato col marchio Technics, tornerà in realtà nella seconda parte dell'anno e in molti stanno aspettando, soprattutto devo dire i DJ e tutta quella parte di mercato che amava i giri a dischi a trazione diretta e non quelli a cinghia. Il mondo dell'alta fedeltà, diciamo, esoterica, rispetto alla trazione diretta ha sempre avuto un pochino di ritrosie e preferiva magari i giri a dischi a cinghia, ma malgrado ciò l'SL 1002 sarà fatto un buon nome sia nel mercato dei DJ che in quello dell'alta fedeltà più tradizionale. Ti faccio una domanda su, che è la domanda che ci si fa quando si parla di vinile. C'è una parte, soprattutto magari di una certa età, che dicono ancora: ah, come si sente il vinile, non ecco, si sente sì, che la domanda perché il suono è più caldo, perché sì, tutte queste cose qua che non sono vere, secondo me, però. Ma neanche secondo mio padre, che dischi li ha fatti per 50 anni comunque. Pensa un po', Gianfranco, cosa dice? Beh, io dico che il suono è diverso, no? E quindi, e poi siamo nel mondo dell'estetica, e quindi ovviamente qui può piacere un suono, può piacere più un altro, ci può essere anche più abituati o più affezionati a un suono. D'altronde, se sentiamo un suono che ci riporta un po' alla gioventù, beh, un po' di nostalgia viene comunque, non fosse altro della gioventù e non di quella musica. E quindi questo è sicuramente un dato di fatto, è un suono diverso. Perché è diverso? Perché la stampa è appunto una stampa analogica, quindi proprio un timbro che viene fatto sul vinile, lasciatemi dire così, un'incisione, e la puntina che meccanicamente va a leggere questa incisione non lo può fare in una maniera digitale così precisa, lo fa in una maniera analogica, così i piccoli gradini formati sul vinile non sono mai così netti e la lettura che la puntina ne fa non è mai così precisa. Queste piccole imprecisioni in realtà rendono il suono più morbido. Nelle imprecisioni ci sta anche però la polvere graffi, e quindi tutto quello che ne consegue, anche quei tic-toc che ogni tanto si sentono, e anche ovviamente la necessità di pulire, di mantenere il disco, e il fatto che il disco si consuma. Non che il CD, allora, quando lanciarono i CD si diceva che i CD erano eterni, indistruttibili, vanno tenuti bene anche i CD, però effettivamente il disco in vinile ha bisogno di certe cautele. Sì, posso dire, è un po' il vinile è un po' come la Ferrari. Non bisognerebbe usarla, perché se la usi devi tenerla in garage e guardarla. Infatti, no, allora, grandi... io però dico, Enrico, tu che solo musica in streaming, ma se guarda Paolo, lo dico Enrico, ma quando invita a cena una signorina, ma le metti su un bel disco in vinile, le fai sentire un po' l'atmosfera? Ma sulla musica in streaming ci sono delle fantastiche compilation di musica jazz, magari late night jazz, che hanno preparato milioni di persone, quindi sono perfette e sono già lì pronte, no? Ma io e soprattutto io non dice, ma a me non mi piace la musica jazz, cioè, dimmi Gianfranco. Inguaribile, incredibile Gianfranco. Non sono d'accordo, perché dopo 23 minuti il vinile va girato. E quindi per un appuntamento con una signorina, come dicevi, dopo 23 minuti finisce la musica, meglio una bella playlist su Spotify. Scusatemi. Perché voi pensate che lasciate una signorina senza respiro per più di 23 minuti? Posso dare una soluzione? Ci sono delle possibilità online di trovare una playlist registrata dal disco, quindi con il fruscio, che però non ha l'obbligo ogni 23 minuti di girare. Quindi puoi prendere una playlist di 90 minuti di vinile e sembra vinile, in realtà è musica liquida. Quando è arrivato il CD c'erano delle canzoni che venivano fatte con il fruscio del vinile, no? Allora vi leggo solo al volo alcuni messaggi, poi abbiamo una brevissima pausa e poi continuiamo con questo discorso. Allora, un ascoltatore via SMS al 349-238-6666 ascolta FLAC in HD. Vabbè. Vero, i file MP3 a basso bitrate sono un insulto per l'udito, ma credo che un brano MP3 con bitrate, con frequenze di 320, non sia distinguibile dallo stesso suonato da CD. E poi tanti ascoltatori, Andrea, Davide, dicono non Technics ma Torrens, che è un'altra marca. Dopo abbiamo un esperto di marche, di prodotti. Ci fermiamo solo per qualche istante, anche perché abbiamo anche un esperto di marche e prodotti, così interpelliamo anche lui tra qualche istante. Il sabato del villaggio. Rieccoci per questo dibattito sui supporti per ascoltare musica con Enrico Pagliarini in studio e con Paolo Giordano, critico musicale del giornale. Sono contentissima di averlo ancora qui con noi, anche perché si era trasformato in un dibattito su cosa mettere, cosa usare per una serata romantica, se musica in streaming o vinile. Ma torniamo a cosa compriamo, cosa facciamo, Enrico, allora, adesso per ascoltare musica? Lo chiediamo a Giancarlo Valletta di Audiogamma, che è uno dei più importanti distributori di prodotti di alta fedeltà, ma non solo di alta fedeltà. Benvenuto Valletta. Ciao, salve a tutti. Prima domanda, ma se ne vendono di giradischi, quindi è confermato anche dalla vendita dei prodotti questa rinascita del vinile? Beh, guardate, l'azienda europea, tra l'altro, che è quella che produce più giradischi in assoluto a livello mondiale, ha un livello di produzione di circa 120.000 pezzi al mese. Questo già è un numero interessante, anche se in realtà il mercato del vinile in quanto tale è ancora difficilmente comprensibile, perché esistono da una parte i dischi che si vendono usati e dall'altra parte i giradischi che si spolverano dalla cantina o dalla soffitta, e quindi non fanno parte di un mercato di numeri quantificabili. Quindi io posso dire quello che vendiamo, che è un numero in Italia tra l'altro molto alto di giradischi, però comunque è un numero falsato dal fatto che la reale grandezza, il reale volume del mercato non è comprensibile. Certo, ma quanti ne vendete? Giusto per avere un'idea. Ma ne vendiamo, diciamo, un 1500 pezzi al mese. Quindi nemmeno pochissimi, e tenete conto, non voglio fare pubblicità semi-occulta, ma addirittura Esselunga ha messo un giradischi sul catalogo a punti. È vero. Quindi questo vuol dire non che lo sapevo, quello dei punti sì. delle giradischi. Quindi questo vuol dire che effettivamente, per stare addirittura sul catalogo a punti Esselunga, è qualcosa di estremamente appetibile in questo momento. Valletta, quanto bisogna spendere? Cioè, stiamo parlando di prodotti accessibili, come diceva prima Gianfranco Giardina, l'SL 1200 costava, fino a quando era a listino, poi vedremo i prezzi di quest'anno, 500 euro, o stiamo parlando di questi prodotti molto costosi, un po' esoterici, da super appassionati? No, allora, ho sentito tra l'altro parlare di un'altra marca che è Torrens, che è una marca, diciamo, storica. La tecnologia è andata talmente avanti che con 300 euro, e già si è speso abbastanza, si prende addirittura un giradischi che ha il braccio completamente in carbonio, quindi si riescono a ottenere delle prestazioni estremamente superiori rispetto a quelle che era un giradischi di 20 anni fa. Quindi un giradischi compreso di testina, già con 300-350 euro si ottengono delle prestazioni veramente molto buone, a livello di un giradischi, voglio dire, di 10 anni fa, di 2-3 mila euro, ecco. Assolutamente. Due consigli flash: cosa deve guardare uno che vuole acquistare un prodotto del genere? Ma prima di tutto deve guardare all'azienda che lo produce, perché il giradischi, ricordiamoci che molto spesso ha bisogno di ricambi più frequentemente di quanto non abbia bisogno di un CD, quindi non solo è importante la qualità, ma è importante anche che se la puntina si rompe o se la cinghia di usura, è assolutamente necessario trovare il ricambio. E dall'altra parte, diciamo, deve essere un giradischi con un eccellente rapporto qualità-prezzo e con una testina possibilmente premontata. Esistono dei giradischi di buon livello che addirittura sono già tarati, quindi sono il vecchio concetto di Windows di plug and play applicato al giradischi. Lo tolgo dalla scatola e funziona subito, perché poi il giradischi ha bisogno di un minimo di taratura che occorre saper fare. Siccome adesso il mercato del web, anche per i giradischi, è un mercato molto ampio e profondo, è chiaro però che se lo compro sul web devo comprare un prodotto che lo tolgo dalla scatola e funziona, a meno che non ho l'amico, che potrei essere io, diciamo, che viene a casa e viene a tarare il peso, viene a tarare il VTA, insomma tutta una serie di piccole tarature che non è difficile fare, ma che bisogna saper fare. Gianfranco, anche per concludere, vuoi aggiungere dei consigli? E io ti faccio anche una domanda. Stiamo parlando in modo nostalgico di una cosa che poi non andiamo a comprare, perché io sono emozionato, insomma, a parlare dell'SL 1200, però non lo compro. Ma tu non ascolti neanche Sanremo, però quindi non fai infatti, cioè, di cosa stiamo parlando? Cosa, infatti non so perfetto. Perché sta parlando Enrico in questo nome. Un detto tra noi, appunto. Ma no, allora, un consiglio. Il consiglio, abbiamo già detto, il giradischi è una cosa che potrebbe valer la pena di avere anche se non lo si usa. E lo stesso vale per i dischi in vinile, anche se non li si ascolta, perché non dimentichiamoci della copertina. Cioè, io questa dimensione totalmente dematerializzata della musica non la amo, ma poi la uso, siamo nell'era dell'omnicanalità, le stesse orecchie ascoltano musica in MP3, in FLAC non compresso, da CD e magari anche da vinile, ma gli stessi occhi vogliono vedere la vecchia copertina, i testi sulla copertina, i testi tradotti, le note lette fino all'ultimo di chi ha collaborato alla produzione di quel disco, tutti materiali che nella musica liquida incredibilmente non ci sono più. Io dico incredibilmente perché quando compro su iTunes una canzone mi piacerebbe comprare anche tutti gli artwork che c'erano una volta sul disco. Ah, certo, la bellezza della copertina. Ecco, la bellezza della copertina. Quindi io dico il vinile può essere preso, e i dischi in vinile possono essere presi anche da chi non ha il giradischi. Paolo Giordano che voleva intervenire. Sì, io sono d'accordo con quello che sento, con quello che sta dicendo, perché i ragazzini, se posso dire, molto spesso non sanno non solo chi canta una canzone, ma nemmeno il suo titolo. Certo, cioè, perché lo ascoltano in continuazione, cioè, quindi non si dà più una paternità a una canzone, anche se nel mio caso c'era una sorta di quasi isteria nell'andare a leggere tutti anche i ringraziamenti fino all'ultimo nella copertina dei dischi e le collaborazioni che aveva prodotto, cosa e la solo chi l'aveva suonato, eccetera. Adesso però si è al contrario opposto totale. Adesso uno non sa nemmeno che cosa sta ascoltando. Sì, questo è molto vero, sono d'accordo, perché anche io a volte vado a cercare, magari devi usare degli altri strumenti per cercare il testo, per vedere le foto del cantante o della cantante, quindi non sai. È un argomento bellissimo. Io vorrei chiedervi ancora un sacco di cose, però abbiamo solo un minuto. Gianfranco, tu stavi dicendo un'ultima cosa? Stavo dicendo che c'è anche una dimensione legata al collezionismo, che è una cosa anche molto divertente, perché quando si va anche all'estero, nei mercatini, nei negozietti, e questa è una dimensione bellissima che con la musica liquida si è persa, che ha nel vinile, nelle edizioni locali, quindi le edizioni nazionali, l'edizione giapponese, l'edizione italiana, l'edizione francese, dei diversi dischi che magari uscivano con copertine diverse, con note diverse, ha una sua dimensione che si era persa e che in qualche modo qualcuno sta riscoprendo. E anche questo, collezionare dischi, ovviamente fisici, meglio se in vinile, proprio come si collezionano francobolli o altre cose, è un'altra dimensione del vinile che non è necessariamente legata al giradischi e all'ascolto, ma che è bellissima per chi l'ha fatta e per chi, come me, ha una piccola, ahimè, collezione, ma che sento tiene della cara. Passione in Gianfranco Giardina. Devo ringraziare tutti, Gianfranco Giardina, Giancarlo Valletta, Enrico Pagliarini, che è stato in studio con noi. Adesso vado a comprare un giradischi. Anch'io, allora aspettami, dopo le 18, quando ho finito Radio YouTube. Grazie a Paolo Giordano per essere grazie stato con noi. C'è Alessandra che mi ha scritto un WhatsApp e ha scritto che abbiamo parlato di Sanremo e già si sente in primavera, mi sembra perfetto. E poi al volo volevo salutare Paolo da Venezia, che dice che lui ha il cambia dischi, quindi non ha problemi delle pause nelle cene con le signorine. Adesso parliamo di cinema. E se il computer fosse un bellissimo oggetto? Qualcosa che hai voglia di guardare, di avere in casa? E se, invece di essere solo nelle mani giuste, fosse alla portata di tutti? Sarebbe il più grande sconvolgimento tellurico dello status quo da sempre. Sapremo abbastanza presto se sei Leonardo da Vinci o se credi di esserlo. Tutti stanno aspettando il Mac. Dentro un garage ho inventato il futuro. Perché gli artisti guidano e i mediocri vanno alzata di mano. Gli eventi più importanti del XX secolo. Gli alleati che vincono la guerra e questo. Un film che aspettiamo da tempo, io sono molto curiosa, non l'ho ancora visto, parla della vita di Steve Jobs, lo andiamo a vedere o no al cinema? Lo chiediamo al nostro Franco D'Assisti, ciao Franco. Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, un film assolutamente da vedere per una serie di ragioni. Personalmente parto dal fatto che è firmato Danny Boyle e questo già, come dire, mi dà una patente d'autore, di qualità, anche di inventiva, e devo dire che qui di inventiva Danny Boyle mette molto. Tu dici parla della vita di Steve Jobs, in realtà parla di tre momenti nodali legati, facendo già qua un assioma dove l'uomo e le sue invenzioni e la sua creatura sono la stessa cosa, legati questi tre momenti alle tre grandi presentazioni che hanno segnato la storia della Apple: il Macintosh nell'84, l'iMac nel 98, alla fine di questo percorso, e un momento in cui lui, proprio alla vigilia del lancio di questi tre prodotti che hanno rivoluzionato la storia, forse anche nostra, forse anche dell'umanità, si potrebbe dire in qualche modo, riflette su se stesso, riflette sui suoi rapporti con chi gli sta vicino, con chi collabora con lui, ha un rapporto con questa figlia che vaga un po' per la sua vita, un po' di amore ma anche repulsione. Un film da vedere molto meno biopic del precedente film su Steve Jobs, ma sicuramente molto molto più in profondità. C'è un altro film di cui si parla tantissimo, che è Son of Saul. Abbiamo parlato tanto la scorsa settimana di Oscar per il miglior film straniero. Mi dicono anche che sia uno dei favoriti. Cosa ne pensi? Ma penso che sia assolutamente, assolutamente giusto, perché Il figlio di Saul, come esce in Italia, è un film devastante sotto tutti i profili, ma anche un film che riscrive in un certo senso alcune regole della grammatica cinematografica. La storia di un uomo, appunto Saul Auslander, interpretato da Geza Röhrig, che è tra l'altro un attore non protagonista, è un poeta, uno scrittore, ma non è un attore, ma è veramente di una bravura, di una profondità sorprendente, con quella faccia scavata. Quest'uomo è membro di un Sonderkommando di Auschwitz. Siamo ad Auschwitz nel 44. I Sonderkommando erano quelli formati appunto da ebrei che sostanzialmente portavano gli altri ebrei alle camere a gas, e poi dopo 3 o 4 mesi venivano a loro volta giustiziati per far posto ad altri, perché non dovevano esserci testimoni. Ebbene, un giorno, durante il suo macabro lavoro di sopravvivenza, Saul ritiene di trovare fra le pile di cadaveri dopo la camera a gas il corpo di suo figlio, ed è lì che comincia una storia incredibile, quella di un uomo che in mezzo a questo inferno sceso in terra pensa solo una cosa: dare una sepoltura a quel corpo, a cercare di far prevalere la dignità e la giustizia dentro un mondo nel quale dignità e giustizia non ce n'è. È un film straordinario, toccante, profondo, ma anche un film durissimo per la scelta di regia di Laszlo Nemes. Anche lui è arrivato alla sua opera prima in età abbastanza matura, opera prima per quanto riguarda un lungometraggio, perché la scelta è quella di girare quasi tutto o tutto in una sorta di semisoggettiva del personaggio di Saul. È un film veramente straordinario, penso che per la giornata della memoria sia senza dubbio la proposta più bella che si possa affrontare. Di questo parleremo tra l'altro la Rosa Purpura, perché abbiamo ospite Vieri Razzini, che oltre ad essere un collega di grande prestigio è anche con Teodora il distributore di questo film, colui che ci racconterà come questo film sarà visibile in tutta Italia. Franco, Grand Prix speciale della giuria, dicevamo, per questo film che esce questo fine settimana, ma nel fine settimana c'è in sala anche finalmente Il Leone d'Oro di Venezia, Ti guardo. Assolutamente, una settimana, Marta, davvero di grandissima qualità al cinema, ne sono molto molto felice, la più bella almeno, non solo dall'inizio dell'anno, ma insomma diciamo dallo scorso autunno. Ti guardo, di Lorenzo Vigas, altra opera prima, pensate, di un cinquantenne, con un attore che è diventato una vera e propria icona del cinema sudamericano come Alfredo Castro, la storia di un uomo che vende protesi dentarie, che guarda per passione amorosa i ragazzini, i giovani che sono lì alle fermate degli autobus, offre i loro soldi per accompagnarlo a casa, ma un giorno con qualcuno di questi si sente più legato, prima dal rapporto che porta anche a una sorta di repulsione, poi a un rapporto d'amore. È un film intenso, di una precisione geometrica. Pensate che il regista Lorenzo Vigas ha fatto ed è tuttora un biologo di grandissima fama accademica internazionale, uno scienziato, e con una grande precisione registica mette in scena una storia che sarebbe piaciuta tanto a Pierpaolo Pasolini. Franco, è stata anche la settimana della grande perdita di Ettore Scola, ma ne parleremo con te dopo le 18 con la Rosa Purpurea. Grazie Franco e ci risentiamo il prossimo sabato. Prossimo sabato, Rosa Purpura alle 18, sì, con Gianni Canova racconteremo anche un po' altri aneddoti di un Ettore Scola che non ci mancherà mai abbastanza. Grazie e ci sentiamo più tardi. Il sabato del villaggio. Perché parliamo di qualcosa di nero, in realtà stiamo parlando di qualcosa di commestibile, perché abbiamo dato ampio spazio alla musica in questo sabato del villaggio, visto che cominciamo a sentire profumo di Sanremo, ma adesso sentiamo profumo di pane, pane nero, ma non è esattamente il pane nero al quale eravamo abituati a pensare. Ci spiega tutto di questa nuova tendenza Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buona giornata. E allora, per la prima volta forse da quando abbiamo cominciato a affrontare questo filone delle tendenze, parlerò di una tendenza che non solo è vietata, ma forse si può anche colorare di truffa. Accidenti, attenzione! Allora, c'è questa corsa al pane nero, addirittura molti panificatori hanno incrementato le vendite a prezzi stratosferici, 6-7 euro al chilo. Ma e perché tutto questo? Perché il carbone vegetale, come molti sanno, viene usato diciamo in medicina, in farmaceutica, quando serve per forme di meteorismo, di prevenirle. E quindi forse, probabilmente, molte persone hanno visto il discorso del pane nero e hanno pensato, bah, insomma, qui ci sono anche i miracoli, mentre mangio mi curo contemporaneamente e non ho bisogno di ricorrere al carbone vegetale per evitare, diciamo, dopo che ho mangiato, alcune forme poco simpatiche. Ma in realtà vediamo bene di che cosa si tratta. Bene, il carbone vegetale, diciamolo subito, cioè non è un fatto recente, ma c'è da sempre, ed è identificato nell'etichettatura con E153. C'è una norma che non è recente, che vieta la colorazione del pane e della pizza, appunto, con questo carbone vegetale. Per tornare al fatto salutistico, bisognerebbe dire che ce ne vorrebbe talmente tanto di carbone vegetale prima dei pasti, e non tanto quanto viene contenuto anche su questi pani, chiamiamoli così, fuori legge. Ebbene, perché in molte panetterie si trova ancora? Appunto, se non fa bene e non è neanche legale? Esattamente, ma molti lo comprano ancora convinti, appunto, che faccia bene e che sia legale. Perché? Perché molti panificatori tolgono la parola pane dal cartellino per aggirare la legge. Perché? No. E qui c'è il, diciamo, sempre fatta la legge delle volte che abbatto lo santo. Perché? Perché sempre le norme di comunitarie lo permettono nella panetteria da forno fine. Cosa significa? Significa che si può mettere con le fette biscottate, nei taralli, nei cracker, nelle gallette, nei pasticcini, nelle torte e nelle cialde. Ecco, lì il legislatore permette la colorazione sempre con minima quantità di carbone vegetale, ma anche in questo caso non è in grado di svolgere una funzione attiva contro il meteorismo. Perché ti dirò che funziona il carbone vegetale quando se ne assume un grammo di carbone almeno 30 minuti prima del pasto e un altro grammo subito dopo il pasto. Insomma, sono quelle mode fatte così casualmente che trascinano poi i consumi fino a quando magari si capisce, perché io credo che per tanti mesi, sicuramente forse anche per un anno, nessuno si è accorto di questa vicenda che veniva messa nel pane, veniva venduta nel pane, nonostante fosse vietato da sempre, e molti consumatori si sono intervenuti e sono, diciamo, cascati, come si dice, fino a quando il Ministero della Salute è intervenuto proprio vietando questo uso anche con così delle sanzioni. E devo dire che un po' succede spesso, molte mode che si trascinano sicuramente così, diciamo, col tam-tam, fa bene, io mangio questo. E poi, ma tra l'altro io, ecco, qui voglio dare un mio tocco personale, non legislativo, non salutistico. Ma che senso ha mangiare questo pane così nero? Il pane nero di un tempo era il pane fatto con... Certo, perché io mi ricordo il pane nero era un'altra cosa. Sì, era fatto con dei grani di secondo piano, sicuramente, quei grani antichi che però oggi stanno tornando. Ci sono delle varietà di grani che sono molto molto scuri, ma non hanno niente a che vedere con il carbone vegetale. E probabilmente forse molti ci cascano anche pensando al passato, pensando a questo pane nero che è un po' anche nella storia dei momenti di fame, dei momenti di guerra, cioè si parla di questo pane nero in quanti film si ricorda il pane nero, e non è quello che oggi si va mangiando. Però molte volte prendono il via queste tendenze e poi magari anche il legislatore o chi deve controllare se ne accorge a molto tempo, come succede spesso con tutti gli alimenti, perché diciamoci la verità, i controlli che se ne dica non è che sono così ferrei. Noi abbiamo forse il sistema sanitario di controllo degli alimenti che da tutti in Europa viene riconosciuto una leadership, però poi non abbiamo i controllori. Certo. Questo è il grande problema di questo paese. Siamo bravissimi nel crearle, le norme, e poi bisogna anche farle rispettare. Pensiamo a cosa succede, diciamo, ogni mese o poco più con l'olio d'oliva extravergine. Insomma, probabilmente, ecco, il discorso è il cromatismo. Oggi viene scelto magari anche per far bella figura, cioè il pane nero con insomma spalmato il burro bianco e nero sicuramente fa il suo effetto. Ma si poi fa chic perché è molto particolare, puoi portarlo in tavola e dire che hai scoperto una cosa nuova, ma in realtà appunto non ha né benefici né... Sono un po' stupita e amareggiata di aver scoperto che questa cosa di cui cominciavo a sentir parlare in realtà non solo non è utile ma potenzialmente anche dannosa. Sì, dannosa, perché sicuramente, cioè a lungo andare, potrebbe anche creare dei problemi. Il fatto che il Ministero della Sanità sia intervenuto vada catalogato come E153 e che la comunità europea da anni non ne ammette l'uso sul pane ma su quei derivati del pane, anche qui veramente c'è un'incongruenza. Io non sono andato completamente a fondo, ma non vedo perché se viene usato nei taralli piuttosto che da altre parti nel pane no e negli altri sì, se fa male e se non è integerrimo dovrebbe essere tolto da tutti. Si vede probabilmente che nel pane se ne usa molto di più, probabilmente negli altri prodotti che io ho citato se ne usa molto meno e quindi non ha questo problema. In fondo è carbone vegetale, quindi come dicevo prima viene usato in farmaceutica, perché molti lo usano, sono molti prodotti a base di carbone vegetale diciamo per un fatto digestivo o d'altro, di gonfiori e di flatulenze e via di seguito, quindi sicuramente qualcosa serve, ma non serve in ma questo non caso, in quelle dose non preparato in quel modo, ecco. Esattamente. Quindi diciamo che molte volte bisogna vedere le tendenze, ma bisogna prenderle anche da tutti i versi con attenzione. Cum grano salis. Davide, siccome abbiamo solo 3 minuti, facciamo un flash su Verona e poi ne parliamo la prossima settimana, visto che abbiamo detto che avevi preparato un itinerario su Verona, ma questa settimana abbiamo un po' più di pubblicità e magari bene. Gli ascoltatori diranno che è una noia, ma a noi fa bene un po' di pubblicità. Sarò corto, come si dice, sarò corto. No, facciamo anche solo Verona aperitivo, sicuramente... poi la prossima settimana ne parliamo tanto perché è romantica e a me mi ha fregato più volte Verona, caro Davide. Verona è una delle mie città preferite, ci sono degli angoli davvero straordinari e poi ti dirò l'ultima cosa, è una delle città dove si mangia mediamente meglio in Italia, quindi sicuramente vale una cosa approfondita. Allora io ti do semplicemente un flash su un personaggio, perché questo personaggio ha creato diversi locali e vale la pena che sia nominato. Si chiama Giancarlo Pervellini, che un tempo aveva un ristorante Isola della Scala fuori Verona, ora invece è entrato nella sua città e ha dato vita a quello che io richiamo una ragnatela di marketing, perché ha creato Casa Pervellini, che è un locale di alta gastronomia dove ci sono pochi posti a sedere e si mangia di fronte a lui e diciamo offre il cibo. E Pervellini sicuramente ha una varietà di piatti che ci si può veramente sbizzarrire, perché è stato diciamo uno dei grandi della grande cucina italiana. Poi quasi forse avendo capito la tendenza è tornato un po' indietro e fa qualcosa di molto più sostanzioso. Bene, Perbellini ha creato questo ristorante, come dicevo, per i gourmet. Ha creato un ristorante che si chiama La Locanda dei Quattro Cuochi, per diciamo le famiglie, nel senso che Locanda dei Quattro Cuochi, ci sono quattro cuochi i quali non solo cucinano a vista, ma ti prendono gli ordini, ti portano a tavola il piatto e quindi ti assistono a 360 gradi. È stato un format molto innovativo per l'Italia. È un locale, mentre il primo è adatto ai gourmet, questo locale è adatto alle famiglie, perché ci sono delle tovaglie di carta con dei pennarelli, vengono dati dove i ragazzini, per star fermi a tavola, possono anche disegnare, scarabocchiare, e si mangiano piatti molto semplici, dal pollo arrosto alle lasagne, insomma tutti i piatti che secondo me vanno bene per una famiglia che va a mangiare in quattro e deve accontentare anche i bambini. Tra parentesi, proprio l'altro giorno è venuta la notizia che un ristoratore romano... Allora, facciamo una cosa, Davide, la prossima volta, dopo questo antipasto veronese, ti faccio tornare a Verona e poi ti chiedo qualcosa anche sulla polemica su bambini al ristorante oppure no. Adesso dobbiamo dare la linea al giornale radio, però sì. Ne parliamo sabato prossimo? Ne parliamo, ti do gli altri due i suoi ristoranti, uno si chiama Tappasotto, che è di tapas, e poi un altro ancora che è una pizzeria, quindi... Ti ho aggiornato su questo Fantastico. Personaggio che ha un po' invaso Verona. La prossima volta parliamo di bambini al ristorante, perché le polemiche io le ho già Fantastico. Portate avanti mesi fa, va bene? Momento okay. Del GR, grazie Davide, al prossimo sabato. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. E rieccoci con la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24. Il numero per i vostri sms 349-238-6666, va benissimo anche per i WhatsApp. Il mio account di Twitter, @MartaCagnola, oppure l'hashtag #ISDV. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Parliamo di TV, delle serie di successo che non ci faranno dormire, perché parlano di crimini, ma sono storie vere. I libri del momento con Alessandra Tedesco, i consumi con Maria Luisa Pezzali, ma prima torniamo al cinema con un consiglio mio personale, con due protagonisti del fine settimana. Sei stato lasciato? La tua come si chiama? Federica. La mia Sara. Vorresti vendicarti? Quella è Federica. E quello che è? Quella è una merda. Esiste un metodo. Gliemenamo. Ma che gliemenamo? Le lasciamo. Cioè, io devo conquistare la tua Sara e tu devi conquistare la mia Federica. Il primo appuntamento di Presenti senza l'autista. Ma dove lo vediamo l'autista? Io sono un attore vero. Io ho vinto la Spiga d'Oro come miglior figurante del cinema italiano. 200 euro? Ma mica al giorno. A settimana. Ah, io. E quindi non accetti? No, accetto. Quando iniziamo? Chi sei tu? La segretaria del cavalier Lutovisi. Sta facendo scuola di dizione, ma ancora non ha completato le consonanti. Vincenzo e Paolo sono accomunati dallo stesso triste destino, sono stati lasciati dalle proprie compagne. Una sera si incontrano per caso. Vincenzo ha l'illuminazione, l'unico modo per smettere di star male e voltare pagina è la vendetta, e scogitano un piano per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita. Ciascuno di loro dovrà avvicinare l'ex dell'altro, farla innamorare perdutamente e poi lasciarla senza pietà. Inizia così una commedia che esce questo fine settimana. Mi ha stupito, quindi io ve la volevo consigliare, anche perché i due protagonisti sono due persone deliziose, il protagonista e regista Vincenzo Salemme e l'altro protagonista che è Paolo Calabresi. Una commedia delicata, senza volgarità, senza esagerazioni, se mi lasci non vale. Appunto, non ci sono eccessi, non ci sono esagerazioni, l'ho detto anche Vincenzo Salemme. Anche delle mie stesse precedenti commedie a volte avevo degli eccessi. Parlo dal punto di vista interpretativo oppure anche narrativo, avevo delle, secondo me, forzature che in teatro sono validissime, mentre al cinema la sensazione che fanno staccare lo spettatore, perché a un certo punto, vabbè, non ci credo più, dice lo spettatore. Invece in questa commedia mi sembra di essere riuscito a mantenere un equilibrio, un'armonia che rendono l'ascolto più gradevole. C'è tanta Napoli e tanta recitazione anche con modelli classici, non solo per la presenza monumentale di Carla Giuffrè. di Carlo Giuffrega mi ha regalato questo cameo, che, ma poi com'è asciutto però come recitazione, quella dimostrazione del fatto che poi non è vero che la recitazione teatrale debba essere barocca, pomposa, assolutamente il contrario, è asciutta, e con gli anni questo lo capisci sempre di più. È chiaro che a teatro recita in maniera più roboante perché lo richiede il luogo, il fatto che gli spettatori siano a una lunga distanza, ma l'obiettivo è lo stesso, essere credibili. Come è nato l'incontro con la sceneggiatura e con la storia? È nato così, che volevo scrivere una sceneggiatura con Paolo Genovese, lui mi ha proposto questa idea, proprio lo spunto mi è sembrato molto carino, e poi abbiamo scritto insieme la sceneggiatura. E mi sembra pure questa una cosa positiva, perché il cinema dalla collaborazione ne ricava sempre vantaggi. Una cosa poi peraltro molto tipica del cinema italiano classico, la collaborazione, l'incontro delle idee. È tutto così. Le commedie erano belle perché c'erano dei grandi sceneggiatori. Io penso che la sceneggiatura è tutto. Anch'io mi vergogno, che male c'è. I due protagonisti, lo abbiamo sentito, sono un 45enne e un ultra cinquantenne, e c'è il problema del maschio. Il problema del maschio qual è? Insomma, che i maschi sono sempre dei ragazzini. Il maschio proprio c'è questo problema della... Infatti la vendetta è una cosa proprio adolescenziale, è una vendetta anche abbastanza innocua e anche abbastanza illusoria. Tendiamo sempre ad illuderci noi maschi, per questo poi dopo la reazione è violenta. Quando rimaniamo delusi, credo che la spiegazione a tanta violenza maschile derivi proprio dal fatto che siamo facili alle illusioni e di conseguenza alle delusioni. Poi c'è il rimbambimento da social, che è un po' di tutte le generazioni, però secondo me sull'uomo cinquantenne è esilarante. Sì, il rimbambimento dell'uomo cinquantenne col social è davvero... Cioè, esilarante, perché non ci appartiene. Io faccio addirittura in teatro un monologo su questa cosa, che il mondo di chi è nato più di 50 anni fa rispetto a quello attuale è cambiato come se ne fossero passati mille, perché dobbiamo, una volta per conoscerci dovevamo parlare, guardarci, annusarci, adesso per conoscersi si usa lo schermo, che è piatto, non suda, non sogna, tutto un altro mondo. Sai che ultimamente ogni regista e ogni attore devono pagare la tassa della domanda su Checco Zalone da parte dei giornalisti italiani, domanda che non ti farò. Invece io ti chiedo se secondo te sulle commedie abbiamo alzato l'asticella sia degli incassi sia delle aspettative del pubblico. Beh, ti devo rispondere nominandolo, perché a guardare Zalone l'asticella degli incassi non è si alzata, è proprio scoppiata. Speriamo che la mia commedia perseveri, non negli incassi, perché sarebbe stupido pensare di fare, però che vada bene, che piaccia, perché magari ha un pizzico di qualità, che dimostri un'attenzione a come la fai, al lavoro eccetera, che il pubblico lo possa premiare, ovviamente speriamo che sia così. Poi niente parolacce, niente battutacce, niente. Volgarità, diciamolo, pur facendo ridere, questo è importante. La tua come si chiama? Federica. La mia Sara. E da quanto tempo ti ha lasciato? Sono alla settima settimana. Dodicesima. Ah, e hai ancora nausea? La mattina, ma quello è il rancore. Desiderio di dormire sempre? Sì. Spossatezza? Bene. Gonfiore alle caviglie? Non è che sto proprio incinta. Io invece ce l'ho. È la depressione. Ah. Essere lasciati alla nostra età è brutto. Perché, quanti anni hai? 55. Pensavo meno. Grazie, ma ce li ho. Tu invece? 45. Pensavo di più. E abbiamo sentito il protagonista e regista Vincenzo Salemme, tanto carino. E quanto è carino l'altro protagonista, Paolo Calabresi, eccolo qua. È una di quelle cose a cui sono più affezionato in assoluto, anche perché soprattutto l'incontro con Vincenzo è stato per me una vera scoperta. Cioè, io avevo un immaginario di lui leggermente diverso da quello che poi invece si è rivelato, sia nella fase della lavorazione del film sia anche proprio come prodotto finito, e quindi è stato ho trovato un regista vero, che sa dirigere gli attori, che non ha una comicità pretestuosa, che dà un senso a tutto quello che fa e cerca sempre un secondo strato nelle cose, e questo film credo che sia molto riuscito in questo soprattutto. Devo dire che questo film, te lo dico io per prima, è una sorpresa come commedia, non ci sono esagerazioni, non c'è la battuta facile, è molto garbato, è molto sei cosciente che è abbastanza sorprendente anche per chi va senza sapere nulla al cinema? Un po' sì, sono cosciente di questo, perché me ne sono accorto guardando il film finito. Fino ad allora avevo, come sempre mi succede purtroppo, è la mia croce, di non essere mai tranquillo su quello che faccio, avevo mille timori proprio sotto questo aspetto. Guardando il film mi sono accorto che tutto quel lavoro che abbiamo fatto con Vincenzo proprio di sottrazione, ed è molto più difficile sottrarre quando fai un film comico, perché tendenzialmente facendo un film comico pensi sempre di dover esagerare, di fare qualcosa in più, non qualcosa in meno, invece ce lo siamo imposto, e probabilmente questo incontro tra la mia mondo, la mia comicità, il mio essere attore e il suo è stato molto positivo per questo, perché ci siamo aiutati a vicenda anche proprio sul campo. Spesso i registi ti stanno utilizzando per dei ruoli di tenero, sto pensando al tuo ruolo nella Corrispondenza, ma anche in TV con Zio Gianni, sei comunque un uomo molto dolce, molto tenero, sì. È perché lo vedono in te? Ti sei mai fatto questa domanda? Sì, me la sono fatta ultimamente, e io l'avevo già scoperto con Biascica questa cosa. Biascica era dolcissimo sotto la sua ruvidezza. Sì. Però sì, questo è una... Io sono molto fragile come persona, sono come artista, diciamo, come attore, ho mille insicurezze, mille indecisioni su quello che faccio, poi però allo stesso tempo non me ne risparmio una e ne faccio tante, e quindi si raddoppiano anche le insicurezze, eccetera, eccetera. E chi mi sta vicino, chi mi vuole bene, effettivamente mette l'accento su questo aspetto che tu dici, e io sono contento che i personaggi che interpreto, perché raccontino anche questa paura, questa fragilità, questa dolcezza, come hai detto te. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo dopo questo mio consiglio personale in fatto di cinema, perché io mi sono divertita molto, ho sorriso, avevo bisogno di sorridere quando sono andata a vedere Se mi lasci in un vale, ho sorriso, il che non è poco. I vostri messaggi al 349-238-6666, sms e whatsapp. Devo ringraziare Enrico Maria, che scrive delle cose molto carine sul sabato del villaggio e sui suoi argomenti, ma soprattutto che dice che ci ascolta in dub. Sarà molto contento Enrico Pagliarini, adesso glielo dico, perché è il nostro guru del dub. Grazie a Enrico Maria. Adesso dobbiamo aprire nel Sabato del villaggio il capitolo, il capitolo dei libri. Ecco, guarda, sono uscite le stelle. Ehi, vieni a giocare con me. Non posso giocare con te, non sono addomesticata. Ma se mi addomestichi, avremo bisogno l'uno dell'altro. Per me tu sarai l'unico al mondo. Ciò che è essenziale è invisibile agli occhi. Ed entriamo subito in atmosfera Piccolo Principe. È stato un grande successo in questo periodo al cinema. Ovviamente è uscito insieme a Checco Zalone, quindi ha occupato le sale che erano lasciate libere da Checco Zalone. Eppure è stata una sorpresa, è andato molto bene. Ma piace sempre questo Piccolo Principe. A me stupisce sempre un po' questa cosa del Piccolo Principe, che funzioni sempre così tanto, chissà come mai. Allora lo chiediamo alla nostra super esperta Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Diciamo che è il libro proprio che funziona in assoluto. Se mi è devi uno spiegare dei libri... perché io non ce la faccio. Ma perché? Allora, innanzitutto è uno dei libri più venduti. Iniziamo con una sorta di decalogo, insomma, sì. Oltre 135 milioni di copie in tutto il mondo, c'è una cosa allucinante, è stato tradotto in più di 250 lingue. Allora, perché piace il Piccolo Principe? Perché, almeno per noi che adesso abbiamo 30, 40, 50 anni, è stata, come dire, una storia molto allegorica, simbolica. C'era questo bambino che viveva, arrivava da questo asteroide, incontrava quest'uomo che era precipitato con l'aereo nel deserto, e questo bambino gli gli racconta tutti i personaggi che ha visto su altri pianeti, facendo capire che in fondo lui non riesce a capire gli adulti. Da qui emerge quindi il senso della vita, l'amore, l'amicizia. Quindi è qualcosa che ha colpito moltissimo le generazioni di bambini, come dire, passate. Ora bisogna domandarsi se colpisce ancora quelle del presente. Perlomeno al cinema sì, ma è proprio fedele il film? No, il film è liberamente tratto, quindi lo dice proprio il regista, eccetera, quindi ci sono cose diverse. C'è da dire che anche sui libri che adesso ci sono in giro in Italia ci sono diverse traduzioni, perché proprio nel 2014 sono scaduti i diritti, perché sono passati più di 70 anni dalla morte di Saint-Exupéry, dall'autore, e quindi chiunque può pubblicare Il Piccolo Principe affidando a qualsiasi tipo di traduzione. Però insomma la storia, il significato più o meno è quello, i disegni, vabbè, quelli originali sono particolari, li riconosciamo dappertutto, riprodotti eccetera. Altra curiosità è che è un libro che torna puntualmente in classifica, nella classifica bambini e ragazzi oppure della varia, dipende, sempre prima dell'estate, quindi è una lettura che ancora gli insegnanti danno ai bambini e ragazzini a scuola. Vero, quindi bestseller estivo come compito delle vacanze. Vabbè. Oppure poco prima di Natale, in genere questi sono i due personali fra le letture obbligate. Poi ti chiederò se questo aiuta a innamorarsi della lettura o a vederla come tassa. No, io sono contro le letture obbligate. Secondo me, lo dico sempre, ci vorrebbe l'ora di narrativa a scuola, cioè l'ora in cui ti appassioni a leggere un romanzo. Non devi fare nessuna scheda, te lo scegli tu. Ti vuoi leggere Moccia, ti leggi Moccia. Ti vuoi leggere Il Piccolo Principe, ti leggi Il Piccolo Principe. Ti vuoi leggere Jamie Maguire per le ragazzine, ti leggi Jamie Maguire. Solo così la lettura diventa veramente fonte di piacere, di fantasia, di liberazione del cervello, e diventa veramente uno dei piaceri fondamentali della vita. Appoggio la mozione tedesco. Torniamo alle curiosità del Piccolo Principe. Allora, altra curiosità del Piccolo Principe: è una storia autobiografica. Molti ci fanno caso, però è una storia autobiografica di Saint-Exupéry. Ci fa riferimento lui ad alcuni personaggi, ad alcune persone che realmente sono esistite nella sua vita. La citazione più famosa del Piccolo Principe riguarda la rosa. È presente che il bambino coltiva questa rosa, insomma la tiene come se fosse una cosa preziosissima, e la citazione più famosa è: è il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Tararà! I bambini ogni tanto qua hanno un attimo di smottamento, però insomma non hanno la stessa concezione del tempo, quindi non capiscono ancora. No, diciamo che io poi ho fatto un piccolo sondaggio della serie Testato per voi. Il sondaggio zia? Il sondaggio sì, sia zia che insomma amiche, colleghe che hanno figli insomma dai 6 anni in su, e molte mi dicono che sì, l'hanno comprato, però i bambini magari preferiscono leggere altri personaggi che li attirano di più. Questo un pochino mi dispiace, perché all'epoca a me Il Piccolo Principe, faccio parte di quella generazione che siccome non l'ho mai amato, facciamo che me lo rileggo. Ecco. Dai, faccio i compiti delle vacanze. E sai che è stato pubblicato prima in inglese e poi in francese? Ah, ma pensa. Sì, per una questione che adesso insomma è lungo spiegare, ma fu pubblicato prima in inglese e poi in francese. Ma pensa un po'. Quindi da allora io prometto rileggo Il Piccolo Principe, perché io non l'ho mai amato tanto, ma magari adesso mi letto da adulta. Anni, letto a 15 anni, va bene, sì, magari adesso... Non lo so, magari da adesso adulta siamo diventate ciniche. Trovo un significato che mi colpisca al cuore. Libri di cui si parla, Alessandra, a parte questo Piccolo Principe, appunto se ne è parlato tantissimo, l'avranno anzi comprato ancora di più dopo il successo al cinema, no. Altri libri di cui si parla. Allora, un libro di cui si sta iniziando già a parlare parecchio è Il Grande Futuro, l'ha scritto Giuseppe Catozzella, pubblicato da Feltrinelli. Catozzella aveva scritto un paio d'anni fa Non dirmi che hai paura, era la storia vera di questa atleta somala, Samia, che aveva corso anche alle Olimpiadi di Pechino e che poi era morta in uno dei tanti naufragi del Mediterraneo, insomma stava cercando di arrivare in Italia per poi andare in Gran Bretagna. Con quel libro Catozzella aveva venduto circa 100.000 copie e aveva vinto lo Strega Giovani, che non è lo strega di quelli piccoli che scrivono, ma è lo strega assegnato dagli studenti delle scuole superiori. I giovani sono quelli che votano. Catozzella è giovane, ma insomma i giovani sono quelli che votano. Ancora una volta ci propone una storia molto interessante e che nasce dall'esperienza personale, perché ha incontrato diversi ragazzi che gli hanno dato alcune testimonianze. È un romanzo di formazione di un islamista radicale combattente, quindi assolutamente un tema molto molto attuale. narrato in prima persona da questo Amal, questo figlio di pescatori. Il suo miglior amico è Ahmed, che è il figlio del signore del villaggio. Il padre di Amal a un certo punto muore, le strade dei due si separano e Amal, per riempire questo vuoto interiore, questa solitudine che prova, finisce per arruolarsi fra gli estremisti islamici. Prima segue un percorso di educazione religiosa molto molto rigido e poi si arruola fra gli estremisti islamici. Quindi secondo me è un romanzo consigliato a chi ha voglia di capire le cose attraverso un romanzo. Catozzella ha un grande pregio di farci capire i fenomeni di cronaca sociologici attraverso piccole storie, piccoli romanzi, e quindi ci fa immedesimare nei personaggi e ce li fa comprendere. Anche perché i saggi spesso non li affrontiamo, non li leggiamo, invece magari con una storia... C'è più l'emotività in gioco nei romanzi, e quindi ci si arrabbia, ecco, anche se Catozzella non dà un giudizio su questo personaggio, però, come dire, ci si sente più coinvolti. Thriller, qualche amante del thriller, visto che ci scrivono in tanti. Guarda, gli amanti dei thriller, c'è un thriller che veramente sta avendo un successo incredibile e ne stanno parlando tutti. La curiosità è che l'ha scritto il traduttore del Cardellino di Donna Tart, non so se uno che ha lavorato a lungo per tradurre mille pagine rotte. È un bel lavorone di traduzione. Questo è il suo primo romanzo, si intitola È così che si uccide, pubblicato da Longanesi. Lui si chiama Mirko Zila, a dispetto del nome italianissimo. Le cose che colpiscono in questo thriller, allora vabbè, c'è una donna che viene trovata morta sulla scena del delitto, c'è pioggia eccetera, quindi insomma è difficile ricostruire appunto quello che è accaduto. Colui che deve indagare è il commissario Enrico Mancini, che sostanzialmente è un profiler. Lui ha studiato alla scuola americana di Quantico, hai presente la serie TV per esempio? Sì, mi piace tanto. Ah. E lui è stato uno di quelli, almeno il personaggio, che si è specializzato come profiler a Quantico. Però lui è in una fase di crisi. Lui è descritto un commissario molto umano, non vuole più occuparsi di casi, di serial killer, non vuole interessarsi di questo caso, viene quasi costretto. E l'autore ha la capacità di indagare molto nella psicologia dei personaggi, non solo il quale è il serial killer, ma di tutti i personaggi che girano intorno, compreso appunto il profiler. E l'altra cosa curiosa di questo romanzo, È così che si uccide, è che ci presenta una Roma inedita, cioè la Roma, diciamo, dei grandi mostri industriali, non so, il mattatoio di testaccio, il gasometro, gli ex stabilimenti Miralanza. Sono queste le scene, gli scenari di questo giallo. È così che si uccide, thriller e giallo. Thriller consigliato a quelli che... Fa paura tantissimo. Allora, non fa paurissima, nel senso che è un thriller letterario anche, quindi non ci sono scene pulp. Quelli appassionati di thriller psicologici, di capire la psicologia non solo dell'assassino, ma anche di colui che indaga. E questo è ovvio che lo scrive uno che ha passato chissà quanto tempo a tradurre mille pagine del Cardellino, ovvio che tira fuori un romanzo del genere. Tu cosa stai leggendo invece, Alessandra? Sono un po' curiosa. Guarda, l'ho anche twittato qualche giorno fa, ne avevamo parlato qui al Sabato del Villaggio per altre ragioni. Michela Murgia, Kiru, pubblicato da Einaudi. Io vi dico, proprio dichiaro il mio amore pubblico per Michela Murgia, scrittrice. La sua scrittura è un ricamo. Ha una delicatezza, un modo incisivo anche. Non sono sempre d'accordo con le cose che dice, però quando scrive è veramente poesia. Ti leggo un piccolo brano di questo libro dove si crea un rapporto quasi d'amore, diciamo, una relazione strana fra un ragazzo di 20 anni, di 18 anni, e una donna, Eleonora, che ha 20 anni più di lui. Eleonora, per descrivere il suo senso di solitudine, dice: «L'odore di legno e marmo lucidati dell'ingresso mi riconciliò in parte lo spirito, restituendomi il senso di libertà che si respira solo nei luoghi dove non c'è alcuna aspettativa da deludere. Il silenzio di casa mia era misericordia pura e mi dava ogni sera il gusto del perdono, anche quando non avevo addosso il peso di alcuna colpa». Poi scrive altre cose e dice: «Deve essere triste tornare a casa e non trovarci mai nessuno», mi ripetevano in confidenza le coppie che conoscevo, come se la tristezza fosse un fatto di sottrazione numerica, un disagio che l'avere qualcuno per casa avrebbe potuto scongiurare. Beh, per me questa è letteratura. Bello, emozionante, mi piace tanto, quindi a parte consigliarlo a me perché mi hai fatto venire voglia di leggerlo. Chi ha voglia di una storia intensa e ha voglia soprattutto di una lettura lenta. Le parole di Michela Murgia vanno assaporate con lentezza, no lettura veloce, please. Sai cosa mi succede con i passaggi così belli? Io poi me li devo segnare su un quadernino, quindi diventano sono tutti letture. Degli status di Facebook ormai. Io li segno a penna su un quadernino. Alessandra, dopo tutti questi consigli, il consiglio invece per seguire te al Cacciatore dei Libri. Ogni sabato alle 6.30 del mattino per i mattinieri, a replica alle 22 e poi naturalmente podcast, podcast, podcast. Che brava a dire podcast, podcast, podcast. È uno show di lingua, radio24.it e poi il tuo account di Twitter, chiocciola Ale Teddina. Ale Teddina, per essere aggiornati, per vedere un po' le foto dei libri, anche quelli che sto leggendo, i commenti, buoni, cattivi. Al prossimo sabato, Alessandra. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al MUDEC di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà. Il sabato del villaggio. E dopo i libri al sabato del villaggio è il momento dei consumi. Tema automobilistico, non so, me lo chiedo e lo chiedo subito a Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio Maria Luisa, cosa ciao, facciamo Marta. Noi in auto? Che, sì, come mai in auto, siamo sì. in questa atmosfera così automobilistica? Allora, un saluto a tutti innanzitutto. Beh, c'è un problema di credibilità per il settore, tra l'altro un problema che non riguarda solo le auto nuove ma anche quelle usate. Oggi parliamo proprio di quello in chiave di consumi. Marta, quante volte abbiamo raccontato il boom dell'usato. Certo, per qualsiasi articolo devo dire che le auto usate, sai cosa c'è? Un tempo io avevo la sensazione che si cambiassero molto spesso le auto, ogni 2-3 anni l'auto nuova. Adesso il parco auto è un così, da non esperta dico che mi sembra un po' più anzianotto, quindi secondo me le auto usate sono sempre di attualità. E quindi tutti i consigli per non prendersi le fregature sono ben accetti. Se ecco. State per comprare o state meditando su un'auto usata, aprite le orecchie perché Maria Luisa Pezzali ci sta per svelare qualcosa. In realtà non io, bensì Alfredo Bellucci, che è il nostro ospite di oggi, autore di un libro, Non prendermi per il chilometro, un libro ma anche un sito che denuncia la truffa dei chilometri scalati, una pratica che tutti conoscono, purtroppo tollerata dai più perché da anni se ne parla. Io da diciottenne ne ho patentata, ne avevo già sentito parlare. Buon pomeriggio. Due anni fa Maria Luisa. Ciao Alfredo, buon pomeriggio. Ciao a voi, ciao Maria Luisa, ciao Marta. Buon pomeriggio Alfredo. Allora, buon pomeriggio a voi. Iniziamo subito col dire che lavoro fai tu. Io sono un rivenditore di autoveicoli usati da una dozzina di anni. Ah, quindi informazioni di prima mano. Assolutamente un insider. Ecco, diciamo un po' quando ti è venuta l'idea di scrivere questo libro, da cui è nata poi la community, perché? Raccontiamolo. Sì, direi che ero sostanzialmente infuriato e non potevo più stare zitto, perché il silenzio è ciò che alimenta il configurarsi di questa truffa che è storica, cioè quella dello scalare i chilometri alle auto. Non ne potevo più, ho deciso che dovevo in qualche maniera dar voce alla mia arrabbiatura. Così ho scritto un libro facendomi aiutare da tre esperti, che sono Luca Peroglio Longhin, Gianluca Polognato e Stefano Mior. E il libro è stato edito l'anno scorso da Apice Libri e in vendita un po' dappertutto, anche su internet. Abbiamo creato un sito internet e di lì anche una community che vuole in qualche maniera, raccogliere i venditori virtuosi, quelli che non scalano i chilometri e che di fatto soffrono la concorrenza sleale, perché scalare i chilometri a un veicolo usato significa danneggiare il cliente finale, ma anche chi semplicemente vuole vendere un veicolo, comprare e vendere un veicolo in maniera onesta. Quindi un danno per il consumatore, ovviamente, innanzitutto un danno anche per i rivenditori onesti. Diamo qualche numero di che fenomeno stiamo parlando, quanto è diffuso lo schilometraggio? Sicuramente le auto in vendita in questo momento sui grandi portali che tutti conoscono non sono meno del 50% quelle che hanno i chilometri scalati. 50% parliamo di circa tantissimo. 1,5 milioni di autoveicoli venduti all'anno con i chilometri scalati, probabilmente anche di più, su un totale di 2,5 milioni di autoveicoli. Parliamo di una truffa che ammonta a 2,5 miliardi di euro. Io però ingenuamente pensavo che fosse una cosa del passato, ma si riesce a fare ancora allora? Si riesce a fare con più facilità oggi, proprio perché i sistemi elettronici lo consentono, tutto ciò che si può scrivere si può anche cancellare e di conseguenza l'era della grande comunicazione permette di avvicinare le persone, quindi macchine che si comprano in Germania si vendono a Bari piuttosto che macchine che si comprano a Torino si vendono a Bari, ho citato Torino dato che è la mia città, ma il sistema è articolato e strutturato, noi l'abbiamo chiamato il teatro della convenienza perché in realtà in conveniente non c'è proprio nulla e colpisce chi vuole risparmiare, chi crede di risparmiare invece alla fine spende di più perché si trova a spendere mediamente 2,000-3,000 euro in più rispetto a quello che vale lo stesso veicolo con il chilometraggio originale. Tu scrivi tra l'altro una cosa che mi ha aperto gli occhi: basta cercare su internet riparazione conta chilometri per rendersi conto di quante aziende pratichino questo intervento. Peccato, tu dici che i conta chilometri non si rompano mai. Sì, ah, quindi è un messaggio in codice. Esatto. No. Sì, sì, diciamo che non potevano scrivere su internet vuoi scalare i chilometri, collegati qua che ti facciamo il lavoro. Non potevano scrivere così, quindi addirittura l'ultima che ho visto di recente è c'è un errore nel contachilometri, noi te lo correggiamo. Come se i contachilometri dessero dei dati sbagliati, no? E tra l'altro poi la correzione avviene sempre per difetto, mai per eccesso, no? Quindi questo è abbastanza curioso. In realtà abbiamo fatto diversi studi e uno campione, così giusto per citarlo, su 30.000 passaggi in un concessionario, ripeto, 30.000 passaggi in un concessionario nell'arco di un anno, si è verificato alla rottura soltanto di 9 contachilometri. Peraltro questi 9 non sono stati riparati, come si dice sul web, bensì sono stati sostituiti, quindi praticamente non si riparano mai questi contachilometri. Invece esiste un vero business sulla riparazione dei veicoli che non conta meno di 500 milioni di euro l'anno. Abbiamo ancora pochissimo tempo, diamo però Alfredo qualche consiglio antitruffa, insomma, a che cosa bisogna prestare attenzione innanzitutto? Beh, diciamo che noi ci siamo attivati nel voler identificare i venditori virtuosi, abbiamo creato una community che sta crescendo da soltanto pochi mesi, già conta 24 operatori del settore. Abbiamo diverse richieste in attesa per entrare appunto nella community che è omonimo del libro Non prendermi per il chilometro. Detto ciò, si possono comprare anche ovviamente veicoli senza entrare per forza nella community o comunque si può comprare anche dal vicino di casa la macchina. È chiaro è che uno dei consigli che mi sento di dare è quello di far tante domande e raccogliere tante prove, tanti documenti che facciano ricostruire la storia di un veicolo. Quindi se abbiamo tante prove, abbiamo tante fatture di manutenzione, libretti di tagliandi, il mix di tante prove e costruiscono quello che è la storia del veicolo che ci può come dire, far stare un po' più tranquilli. La certezza assoluta, lo ripeterò sempre, non ce l'avremo mai perché soltanto comprando nuovo possiamo avere questa certezza, ma quando abbiamo una certezza che diciamo su 10 domande fatte abbiamo 9 risposte, probabilmente possiamo stare tranquilli. Se fosse il contrario escluderei magari l'acquisto, una risposta su 10 domande. La mia Panda ha 123.000 chilometri, quindi direi che non Beh, è che sì, che ha viaggiato abbastanza, non sicuri? Ve la rifilo. Siamo non sicuri? È che li hai scalati? Siamo sicuri e vi assicuro che non ve la rifilo perché non sono così disonesta. Grazie per essere stato con noi, Alfredo Bellucci. Grazie a voi, è stato un piacere. Ciao, grazie. Grazie. E poi mi hai lasciato traccia in onda. Sì, ormai l'ho detto, ormai quindi non posso più barare. Sono tanti sono i chilometri della mia auto. Maria Luisa, al momento dei consigli, beh, già abbiamo dato dei consigli antitruffa, adesso i nostri consigli, questa volta chissà cosa avrà per noi Cristina Lazzati. Ce l'abbiamo in collegamento? Buon pomeriggio, ecco. Cristina. Eccomi qui, buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristina. Ecco. Un pomeriggio denso di consigli per aprire gli occhi. Tu invece dove ci porti, Cristina? In vacanza, io vi porto in vacanza. Andiamo tutti in vacanza attraverso le reti di ospitalità, quindi a gratis. Con due G possibilmente. Allora, certo, magari sono più pensati per giovani studenti o coloro che hanno, come dire, la voglia di farsi l'anno in giro per viaggiando, eccetera, eccetera. Comunque, cominciamo subito con i più famosi. Uno si chiama Coach Surfing, coach dall'inglese e divano. Di fatto è la possibilità di essere ospitati o di ospitare qualcuno sul proprio divano, o meglio ancora, se qualcuno ha una camera in più, anche nel letto, massimo due giorni. Bisogna solo iscriversi al sito, mettere un proprio profilo e scambiarsi. Pensate che comunque parliamo di migliaia di città a disposizione ed è un modo anche per fare amicizia, per conoscere la città attraverso le persone che vi vivono. Poi ci sono, c'è Servas, che è uno dei più antichi perché nasce addirittura nel 1949, quindi internet ha sicuramente facilitato questo scambio, questa ospitalità, ma fa parte comunque di un modo di pensare che ha un po' attraversato tutto il nostro il mondo occidentale. Infatti Servas non nasce tanto per far fare le vacanze gratis alle persone, quanto proprio per far incontrare culture diverse, modi di pensare diversi. Nel caso di Couchsurfing il limite è due giorni, in questo caso invece il limite è che bisogna iscriversi e fare un colloquio, perché insomma per essere ospitati bisogna anche capire un attimo chi sei, cosa fai e se sei una persona onesta. Adesso bisogna non dico che conti i chilometri, bisogna stare un po' attenti. Ecco. Sì. Poi c'è Hospitality Club, che più o meno funziona come Couchsurfing, e lo stesso vale per Be Welcome. Più o meno si parla sempre di uno scambio di ospitalità, per cui è opportuno mettere a disposizione a propria volta uno spazio. Nel caso di Be Welcome non c'è nemmeno un massimo o un minimo di notti. E questi sono proprio gratis. Poi invece ci sono quelli che offrono ospitalità in cambio di lavoro, aiuto. Non parliamo proprio dell'au pair, ma parliamo invece di piccole cose come Stay-Doo. Stay-Doo, scritto proprio STAYDOO, è un punto di incontro tra chi desidera ospitare ed essere aiutato in qualcosa e chi desidera viaggiare a basso costo. Quindi cosa significa? Che nel momento in cui magari abbiamo bisogno per qualche giorno di qualcuno che ci bagni le piante, piuttosto che andiamo via c'è il cane e il gatto a cui dare da mangiare, quello potrebbe essere un aiuto in cambio di una casa. Sempre più vicino alla casa è proprio l'house sitting, che è una delle cose dei fenomeni che si stanno diffondendo di più. Anche in questo caso si tratta di occuparsi della casa, quindi di fare quelle cose che normalmente, che può essere dalla pulizia della piscina, e ci piacerebbe a tutti pulire una piscina e averla a disposizione, ma anche, non so, essere presenti quando viene consegnato un certo pacco, piuttosto che anche in questo caso si tratta di stare dietro a quelle cose che normalmente magari una casa tutti i giorni ha bisogno, anche solo dare da mangiare al gatto o il cibo al pesce rosso. In questo caso di house sitting ce ne sono diversi, hanno nomi più o meno in cui sitting c'è sempre, house pure, ma che cambia da paese a paese. Diffusissimo in Nuova Zelanda, per cui chi ha voglia di fare viaggi dall'altra parte del mondo, ecco, la Nuova Zelanda e anche l'Australia sono tra i più paesi più disponibili a questo tipo di ospitalità. Un altro famoso, perché anche in questo caso c'è da moltissimo tempo, anche se adesso grazie al web si è potuto attrezzare meglio, è il WWOF, che in realtà sono opportunità globali nelle fattorie biologiche. In questo caso si tratta, ci sono anche in Italia, sono in giro per il mondo, ci si iscrive, si va a dare una mano, a far provare l'esperienza di coltivare la terra, potare, perché è un lavoro difficile, ma comunque se dare una mano a chi pota le piante, comunque stare dietro alla coltivazione biologica di questo o quel paese, ce ne sono parecchi ed è un modo anche per provare un contatto con la terra che noi cittadini ormai sempre più cittadini ovunque, abbiamo pochissime opportunità di fare. Io ricordo un film, Marta, in cui mi sembra Cameron Diaz e non so chi utilizzava una di queste piattaforme e rispettivamente trovavano anche i fidanzati. Sì, però esatto, c'era anche la storia d'amore. Sì, era molto carino. Infatti, se andate a cercare soprattutto i primi che ho citato, effettivamente poi ci sono una serie di consigli un po' paralleli di come, non dico trovare il fidanzato, l'amore della vita, però perché no, ma comunque incontrare attraverso questi viaggi Zaino in Spalla. Quindi single di tutto il mondo, Zaino in Spalla, iscrivetevi e viaggiate a gratis per l'appunto. L'amore non va in vacanza, Cameron Diaz e Kate Winslet. Ecco, Kate Winslet. Grazie a Cristina Lazzati, grazie per essere stata ancora con noi ed averci dato queste idee. Io ho già voglia di partire per la Nuova Zelanda sabato prossimo. Ciao Cristina. A voi, grazie. Maria Luisa invece, al di là del viaggio sognato in Nuova Zelanda, domani l'appuntamento con Essere Avere. Assolutamente, alle 22 come sempre. Un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. E c'è un ascoltatore, Beppe Dalodi, che dice che ha una Picasso del 2003 con 3.900.000 chilometri fatti. Hai messo uno zero in più perché sono 390.000. Dai, non puoi aver fatto davvero così il giro del mondo. 390.000. Allora ho ancora da farne con la mia macchina. Ne ho ancora. Allora la mia macchina è ancora giovane. Ciao Beppe Dalodi. Adesso nel nostro sabato del villaggio apriamo una parentesi legata alle serie TV. Io in questo periodo sto guardando delle serie TV che mi stanno togliendo il sonno e questa è una di quelle. The people that were close to Steve knew he was always happy, always wanted to make other people laugh. Stevie did do a lot of stupid things, but he always owned up to everything he did wrong. I've been having a good life since all the trouble started. Questa serie televisiva si intitola, ha un titolo americano, è su Netflix, si intitola Making a Murderer, fabbricando un assassino. Cos'ha di particolare questa serie televisiva? Che è una docuserie, è un documentario in 10 puntate che appunto si possono vedere tutte d'un fiato su Netflix, ma vi toglieranno il sonno perché sono un documentario appunto su una storia vera, quella di un uomo, Steven Avery, che viene incarcerato dall'85 al 2003 per un caso di stupro per il quale verrà poi riconosciuto innocente, ma Avery poi ritorna in carcere accusato di omicidio e in questa docuserie, cioè documentario ma serializzato in 10 puntate, si racconta la storia del primo e del secondo processo. Io vi posso dire che è veramente inquietante e io mi chiedevo un po' perché ci appassionano tanto queste serie true crime, cioè che si basano su crimini veri. Mi stavo facendo delle domande e ho letto un pezzo su Wired.it che mi dava delle risposte, un pezzo scritto da uno scrittore, traduttore, giornalista, autore di Condominio R39 e Einaudi Stile Libero. L'abbiamo chiamato Fabio De Otto. Ciao Fabio. Ciao a voi. C'è un po' di ritardo perché Fabio è a Brooklyn in questo momento. Fabio, sei a Brooklyn perché stai facendo delle ricerche per il tuo prossimo romanzo? Sì, sto facendo delle ricerche per il prossimo romanzo e sono in questo momento in mezzo alla bufera. Ah, ecco perché c'è il blizzard, quindi sta nevicando davvero. Accidenti. Fabio, perché queste serie, e tra poco ne citeremo anche un'altra, ci appassionano tanto? Perché rimaniamo incollati per 10 puntate da un'ora, ed è tanto, è un documentario lungo più di 10 ore, quindi, perché alcune puntate sono anche più di un'ora, che ci raccontano la storia giudiziaria inquietante di un uomo. Sì, allora ci sono diverse teorie. C'è gente che pensa che abbia a che fare col nostro gusto per il morboso, per l'orrido. Altri invece pensano che sia più una questione legata a come queste serie mettano in scena le pulsioni umane portate alle estreme conseguenze senza limiti. In realtà io credo che abbia più a che fare con la struttura narrativa che hanno queste serie, perché di solito quando noi leggiamo crime fiction, che sia un thriller o guardiamo un film di crime fiction, c'è una storia che noi sappiamo già essere ben definita, con un inizio, uno sviluppo e un finale. In questo tipo di serie, invece, sia per come sono serializzate, sia per come sono pensate, si ha l'impressione che tutto stia succedendo in questo esatto momento, che il finale non sia scritto, quindi in questo modo lo spettatore si sente più partecipe e si sente più coinvolto, secondo me, all'interno della storia. Non è l'unica serie appunto realizzata in questo modo. Intanto c'è stato un podcast americano che si intitolava Serial, che raccontava la vicenda realmente accaduta dell'omicidio di Hai Min Lee, una studentessa di un liceo di Baltimora, avvenuto nel 99, un podcast scaricatissimo, un successo in tutto il mondo. E poi c'è un'altra serie che sta andando in onda invece in Italia su Sky TG24, tanto per far capire che appunto è una storia vera, una storia di attualità. Si intitola The Jinx e ne abbiamo un brevissimo estratto. One thing that was very telling that Bob said, he said, all my life I've had more money than I could spend and it didn't make me happy. She talked on the telephone with her husband, then she vanished and no one has seen Kathleen Durst since. Durst was wanted for murder in Texas. He was a suspect for murders in Los Angeles and Westchester County, New York. E questa invece The Jinx racconta sempre la storia vera del miliardario Robert Durst, che per tanti anni è stato sospettato senza prove di aver commesso uno o più delitti. Io non voglio svelare il finale perché c'è davvero un finale in questo The Jinx, ma si scoprirà la verità grazie proprio alle riprese del documentario. Io The Jinx l'ho visto e mi ha davvero tolto il sonno. Fabio, tu che scrivi anche appunto libri gialli, queste serie fanno più paura di qualsiasi cosa però. Appunto come dicevo prima, il fatto di avere un po' l'impressione che non ci sia un finale, quindi questo finale aperto. E poi soprattutto nel caso di The Jinx, secondo me, la questione è che viene messo in scena un personaggio che io da scrittore non sarei mai in grado di concepire. È una persona che mette in discussione qualunque tipo di stereotipo abbiamo di miliardari o anche semplicemente dei killer. E poi in particolare Serial, secondo me, è la più riuscita, pur essendo soltanto un podcast, è la più riuscita di queste serie, perché lascia nel lettore, nello spettatore, il dubbio che sulla effettiva colpevolezza dell'assassino in questione. Tra l'altro, Fabio, tu in questo pezzo su Wired.it ipotizzi il fatto che stia nascendo un nuovo genere televisivo, anche perché sottolinei negli Stati Uniti esistono oltre 300 crimini mediaticamente rilevanti ancora irrisolti e quindi qualcuno potrà pensare di girare ancora qualcosa. Sì, beh, la storia dei true crime drama, come li chiamano, affonda le radici nel XVIII secolo, quindi in realtà c'è sempre stato questo genere, ma adesso ha delle piattaforme e anche le risorse economiche per evolversi esplodere nella sua massima compiutezza. Nello specifico sta giusto per uscire negli Stati Uniti una nuova serie che si chiama The People vs. O.J. Simpson, che sarà meno documentaristica, però è sempre lo stesso discorso, un caso con delle sfaccettature non ovvie, non banali, che viene sostanzialmente estrapolato con un certo punto di vista. Fabio, però a volte io mi chiedo, basterebbe un documentario di un'ora, due ore, invece qui c'è una struttura, episodi che rende poi anche la percezione del fatto e delle indagini molto particolare. Sì, sicuramente. Diciamo che quando c'è un documentario di un'ora, soprattutto in casi piuttosto sfaccettati e spinosi come questi, si avrebbe più l'impressione di una direzione interpretativa. Allargando lo spettro, quindi dando un attimo un po' più di respiro alla narrazione, invece si ha più l'impressione che si abbia a che fare con qualcosa di obiettivo, quando in realtà non è esattamente così. Infatti lo stesso Making a Murderer è stato accusato, e in questo momento qua negli Stati Uniti c'è una forte polemica sul fatto che alcune cose siano state omesse, quindi ipoteticamente il documentario dovrebbe durare, non so, 20-30 ore all'infinito per togliere questa impressione di direzionalità. Sì, perché in effetti c'è il problema della colpevolezza o dell'innocenza di un uomo che però è in carcere, che però è stato condannato, quindi già la messa in scena di un processo è come se fosse mediaticamente un processo alternativo, una ricerca di colpevoli diversi rispetto a quelli che ha trovato la giustizia. Io devo dire, a me davvero ha tolto il sonno. Tu che cosa ne pensi? Io allora purtroppo ho visto questa serie leggendo in contemporanea tutte le critiche, quindi sono abbastanza... Ah, quindi già sapevi dove andava a parare? Più o meno. La roba strana e che un po' mi spaventa è che di fronte a questo documentario è nata una raccolta di firme con tantissime, centinaia di migliaia di firme che sono state indirizzate a Obama per chiedere la grazia per queste due, per questi due imputati, quando in realtà Obama non ha nessun potere su questo caso, perché non si tratta di un caso federale. Però fa capire quanto questo tipo di serie abbiano un potere anche sulla realtà effettiva dei fatti. Incredibile. Fabio, grazie per essere stato con noi. Fabio De Otto ha scritto questo pezzo molto bello che trovate su wired.it, uno scrittore, traduttore, giornalista, autore di Condominio R39 in Audi, intanto ne sta preparando un altro, non vediamo l'ora. Grazie Fabio, a presto. Grazie a voi, a presto. Per concludere vi ricordo The Jinx su Sky, Sky TG24. Invece per quanto riguarda Making a Murderer su Netflix, il podcast di Serial lo trovate in rete, perché è un podcast appunto solo audio. Io ho perso il sonno, io mi sono davvero terrorizzata di fronte a queste serie TV. Tra poco torneremo a parlare di televisione e di giustizia. Lo faremo in RadioTube, perché adesso è il momento di dare la linea al GR24.